快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏普契尼的歌剧《艺术家的生涯》，这是1992年斯卡拉歌剧院演出时的盛况。饰演男主角鲁道夫的是帕瓦罗蒂，饰演女主角咪咪的是科特鲁巴斯，饰演马切洛的是卡布奇里，饰演巴切洛情人的是波普，由卡洛斯克莱伯执棒。下面请连续欣赏。 Come se addosso mi piovesse in stelle per vendicarmi a foro un faraone. Che fai? Dei cieli vigi guarda i mille comignoli Parigi e penso a quel padrone, vecchio gabinetto e dannatore che vive in ozio come un gran signore. Le sue vendette oneste un pezzo non riceve, le sue vendette che fa sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane! Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Voglio fare l'iva, ma se ancora leggerissimo la tu in quella grande acciaia che muore di insetta. Che sciupa troppo e in fretta, dove l'uomo è fascina e la donna è la lore, l'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si gela e si muore di nebbia. Fuoco ci vuole, aspetta, sacrifichiamo la sedia. Eureka! Provasti! Sì! Aguzza l'ingegno, idea farti fiera! Un fango rosso! Puzza la tela dipinta! Il programma, cadente in programma, ci scordi! Vedete la forza, mi giuri! Con gente mancante si spagli, alla secola grande anno minaccia per Roma in pericolo. fatto primo. Va, straccia, attendi. Dramma. Lo trovo scintillante. Vivo. Ma dura poco. La brevità, gran pregio. Autora dell'assedio. Questo internet ti fa morir di legna. Presto. Atto secondo. Non far sussurro. Pensiero profondo, sto color in quell'azzurro guizzo languente scuro d'ardente scena d'amore scoppia con voglio la cerambate creati orgoglio d'un colpo vivere al delle pagine desintegra quella la terra a far salire oddio già s'abbassa la fiamma e vado che fragile dramma già scricchiola in crespa si muore. Abbassa, abbassa la legna, figari, urdo, legna, parma, letto, vizze, d'una sera, di respinge, respirava, di plascia, per voi non sclancia. Sei sordo, cieco, quest'uomo chi è? Luigi Filippo, minchia, non mi ha messo Luigi Filippo, è lo Filippo Or vi dirò quest'oro, o meglio argento alla sua brava storia nel cammino, fredda sul petto un inglese, un signor di parola l'argosia non è un decisto via, per Maria di Leonardo io, qua e mi presento magette di Tomasso spiccio dolce ma quando le lezioni mi presento magette lì mi domando ma quando le lezioni risponde in ciao miccia e badare e un pappagallo ma di primo pianto forse giugge poi suonare viste quello un po' vive la fermata allora l'incanto di mia presenza bella di mia presenza bella ma veramente bella che risposti funzionare ottima cosa se pensi ora lo rito allargo l'ali lo rito allargo l'ali lo rito il becco aprì da Socrate morì sì, che il diavolo vi porti tutti quanti ed or che fate no queste cimarie sono la salmeria e i futuri tenebrosi oscuri pranzare in casa il dì della vigilia mentre il quartier latino le sue vie addobba di salsicce le cornie quanto lo rezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade. Ma le ragazze cantano contente, amici di in casa, ma si pranzi Dividiamo il bottino. Dividiamo. Dividiamo. ci son bel tosce se dal cielo or che si ricompato decenza or sarà via il pelo farò la conoscenza la prima volta con parmi consore e dopo il mio ridicolo già d'un rassoglio Andiamo! Andiamo! Andiamo! Andiamo! Andiamo! Io resto per terminare l'articolo di fondo del pastore. A presto! Cinque minuti conosco il mestiere. Lo spetteremo che passo dal portiere. Parli un vorrai che coro. Cinque minuti agli accorta la coda al tuo castore. Pauline, sei morto? Non ancora, presto. Non sono in vena. Chi era? Una donna. Sente meglio, sì. Qui c'è tanto freddo, segga vicino al fuoco, aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco a poco. Così. Grazie. Che bella bambina. Tanta fretta. Sì. Grazie. Buonasera. Buonasera. Oh, sventura. Cerco. Thank you. amici. Non son solo, siamo in due. Andate da Mus, tenete il posto, ci saremo posto. Suave fanciulla, amore sereno, di vite circonfusa al mare. In te la vita, in te la Thank you. Che non sa, ora la brasia sa, che dal tuo che trasmi.

io voglio separarmi da me.